Videoriprese, pedinamenti, appostamenti, riconoscimenti, minacce, aggressioni e trappole. Non è un film poliziesco. È un campo antibracconaggio e quello che vi racconteremo oggi è in corso proprio in questi giorni nel Sulcis, in Sardegna, organizzato dal CABS, un'associazione di origine tedesca che tradotto in italiano sarebbe il Comitato contro lo sterminio degli uccelli. Ne parliamo con un eroe silenzioso che lavora sempre in contesti difficili, dal Reggio Calabria al Sulcis. Si chiama Giovanni Malara. Qui siamo nella foresta di macchia mediterranea più estesa d'Europa, che è circondata da una cornice di paesi, e all'interno di questi paesi c'è questo bosco enorme, non è percorso da strade e nello stesso tempo appunto non ci sono centri abitati. Puoi camminare anche per un giorno, anche per due, e non incontrare strade asfaltate. Quindi dal punto di vista paesaggistico e ambientale è un posto straordinario. Questi signori che noi combattiamo la fanno da padroni, o meglio la facevano da padroni prima del nostro intervento, in quanto considerano questo territorio il loro dominio, cioè chiunque osa dare fastidio, chiunque osa entrare in questo territorio poi ne subisce in qualche modo le conseguenze. Una volta siete stati aggrediti a sassate, questa volta che vi hanno combinato? Sebbene cerchiamo di muoverci con cautela, però insomma questi hanno una rete che gli consente di individuarci. In questo caso sono intervenuti e hanno squarciato col coltello una gomma. Non è la prima volta che succede, a volte siamo tornati a piedi per decine di chilometri perché tutte le gomme erano state squarciate, quindi insomma siamo abituati. Giovanni, puoi aiutarci a quantificare la piaga del bracconaggio in quella specifica area del Sulcis dove vi trovate? Per le dimensioni del territorio e per la quantità di uccelli che venivano catturati, con degli strumenti di cattura situati alla luce del sole, quindi nemmeno nascosti, e quindi con una palese omissione da parte delle forze dell'ordine competenti, venivano presi dai 300.000 ai 600.000 uccelli all'anno, illegalmente, perché questi strumenti di cattura non possono essere utilizzati. E quindi abbiamo cominciato a stringere su alcune zone che sono quelle più significative, dapprima solamente limitandoci a distruggere questi strumenti che trovavamo. Erano decine e decine di migliaia all'anno. Descrivici queste terribili trappole, anche se poi metteremo delle immagini nel nostro blog. Sono dei laccetti di piccole dimensioni, in crine di cavallo e nylon, che catturano gli uccelli per impiccagione, oppure nei casi in cui queste organizzazioni di uccellatori sono più sofisticate, mettono dei sistemi di reti che sbarrano i valichi anche per chilometri. Quindi immagina delle reti montate su pali alte 6-7 metri, ognuna delle quali lunga 20, invisibili agli uccelli, che chiudono dei valichi montani, e quindi tutti gli uccelli che passano, sia quelli protetti sia quelli cacciabili, rimangono intrappolati in queste reti. Ne abbiamo trovate, ripeto, per chilometri anche in zone sottoposte a protezione, parchi naturali sottoposti alla protezione del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, e quindi abbiamo cominciato con un'azione mediatica, oltre che con l'azione di distruzione, a sollevare il fenomeno. Cioè abbiamo detto: qui c'è una palese violazione delle leggi che non viene presa in considerazione. Ma perché, Giovanni, avvengono queste tristi stragi? A chi giova? Questi uccelli vengono presi per essere rivenduti nei mercati, nelle macellerie di Cagliari e dei centri vicini, per essere consumati durante le festività natalizie. C'è questa pessima abitudine che noi cerchiamo di contrastare. Ci puoi raccontare in cosa consiste esattamente questo piatto tipico e proibito? Questo è un piatto tipico di questa zona, si chiama Pillonis tetacula e sarebbe uno spiedino composto da 8 tordi bottacce oppure da 8 tordi più un merlo, che sono cucinati in un modo particolare, messi a macerare nel mir. Non solo è cruenta la forma di cattura, ma è anche abbastanza disgustoso il piatto. Però evidentemente la tradizione che si è radicata in zone molto povere, nelle quali la grandissima mole di uccelli che arrivavano nel secolo scorso costituiva comunque una fonte di reddito importante, e del resto l'uccellagione era consentita fino a 40 anni fa, quindi non c'è da stupirsi che si continui ancora a consumare questo piatto. Piatto proibito, piatto di lusso, mi pare. Uno spiedino di 8 tordi costa mediamente oltre 100 euro. 300.000 uccelli diviso 8 fa 37.500 spiedini. A 100 euro l'uno si parla di 3.750.000 euro, una cifra ghiotta. Sicuramente è un fenomeno commerciale. Guarda, l'uccellagione in tutta l'Italia è un fenomeno gravissimo che non viene combattuto adeguatamente, e la normativa sfiora il ridicolo, perché catturare catturare un pettirosso o catturarne 1000 prevede sempre la stessa sanzione, che è poco più che un divieto di sosta. Noi quest'anno in Calabria abbiamo preso 2 uccellatori insieme alla Guardia di Finanza, avevano 1000 animali surgelati, però la sanzione è sempre la stessa, cioè questo paese sfiora il ridicolo per quanto riguarda la tutela della fauna selvatica. Per il momento ci fermiamo qui, ma sarebbe meglio dire to be continued. E se volete saperne di più, ascoltateci domenica 25 novembre, poco dopo le 12. Uno squillante Restiamo animali! Dalla vostra Camilla Lattanzi.